Il problema di queste, accomodatevi, grazie. Il problema di queste cose è che le aspettative poi salgono a dismisura. Invece, vediamo se siamo allenati, se ci ricordiamo. In ogni cosa siate. Siamo, ma siamo disordinati un poco. Allora, tutti assieme. Siate sempre, ecco, in ogni cosa, non cessate mai di pregare, in ogni cosa ringraziate il Signore. Questo è buono che ce lo ricorda, perché sono sicuro che il pastore prima o poi ritorna su questo fatto qua, e non ci dobbiamo far cogliere impreparati. Quando noi ascoltiamo o recitiamo o leggiamo siate sempre gioiosi, io non so a voi l'effetto che fa. Vi posso spiegare il mio. Allora, siate sempre gioiosi, io chiudo gli occhi per essere gioioso, perché se li tengo aperti non riesco a essere gioioso. Allora chiudo gli occhi e poi inizio a pensare alle cose che mi fanno essere ancora più preoccupato, e allora penso al lavoro, penso alle difficoltà della famiglia, penso, e la Bibbia dice siate sempre gioiosi. Deve esserci qualcosa di più che semplicemente uno sforzo di volontà o un impegno a dire io lo voglio fare, perché onestamente io lo voglio fare, ma non riesco sempre a farlo, non lo so voi. E questa mattina sapete di che cosa parleremo? Parleremo proprio della felicità, dell'essere gioiosi, e cercheremo di capire che cos'è, come ci si arriva, se è possibile, se è un miraggio, se è qualcosa che è troppo spirituale, che dobbiamo quindi salire in cielo a prenderla, o se è qualcosa di più terra a terra, quindi dobbiamo scendere. Ma è importante che noi capiamo che cos'è la felicità. Quando si parla di essere gioiosi, di che cosa si sta parlando, per cercare di metterlo in pratica. Io voglio che assieme guardiamo un filmato che dovremmo vedere adesso. Vediamo. Io non lo so a che punto della scala noi siamo. Io non sto nell'elicottero, non sto neanche a piedi, sto nel mezzo così. Però quello che, su cui io volevo farvi riflettere e riflettere assieme a voi è che sì che io sia in una Ferrari, quella era la macchina gialla, il profilo non inganna, e desidero andare in elicottero, o che sono in bici e desidero andare in una macchina comune, mi sento povero allo stesso modo. Mi sento frustrato allo stesso modo. Perché? Perché credo che la felicità, credo che quello che mi renderebbe completamente felice è quello che non ho. In realtà noi possiamo guardare a noi stessi e ci rendiamo conto che quando desideriamo qualcosa che non abbiamo, non guardiamo più a tutto quello che abbiamo, a quello che possiamo vivere e viviamo, ma guardiamo a quello che desideriamo avere, e questo ci porta a essere frustrati, a essere... Ecco che cosa mancavano, gli occhiali. Che cosa porta a essere frustrato, quello che non hai. Quindi è importante che noi capiamo Che cos'è la felicità? È godere di quello che ho? O sentirmi fortunato e condividere? O è raggiungere quello che desidero? Perché se noi lo riusciamo a capire, lo possiamo anche fare. Se noi non ci rendiamo conto di quello di cui stiamo parlando, rimane un qualcosa di teorico, così. Se noi pensiamo un poco alla storia dell'uomo, alla nostra storia, ci rendiamo conto che la situazione è molto migliorata. Abbiamo il gabinetto, abbiamo l'acqua calda, abbiamo la televisione, abbiamo il computer, abbiamo la luce, abbiamo un sacco di cose che ci rendono la vita più semplice, più agiata, più comoda. Io questa mattina volevo fare una cosa, poi ho detto a mamma, ho detto, mamma mi vado a fare la doccia, sono andato nella doccia, l'acqua calda, il deodorante, cioè siamo nella condizione di essere felici, di essere contenti. Però se io non sbaglio, è un pensiero comune che un po' di anni fa si viveva meglio. Io l'ho sentito dire un sacco di volte. E se io penso ai miei genitori, e se penso a mia nonna, la madre di mia madre, la donna più felice che io abbia conosciuto, aveva sempre il sorriso, eppure aveva molto meno di quello che noi abbiamo oggi. Quindi con tutta l'evoluzione, con tutti gli sforzi, con tutte le conquiste che abbiamo fatto, non siamo riusciti ad avere quello standard che ci permette di essere felici. E siamo sempre alla ricerca di essere felici. E sapete, noi dobbiamo capire che il desiderio di essere felici l'ha messo Dio dentro di noi. Dio ha messo il desiderio di essere felici dentro di noi. Vi faccio un esempio. Noi potevamo mangiare e mangiare, invece noi mangiamo e proviamo gusto, mangiamo con felicità, mangiamo con gioia. Questo desiderio l'ha messo Dio dentro di noi, perché Dio, e poi lo vedremo, non è un Dio tutto incupito, tutto arrabbiato, è un Dio felice e gioioso. Allora, dove sta il segreto della felicità? Se non è nel raggiungere le cose, nel conquistare le cose, dove sta questo segreto della felicità? C'entra qualcosa l'Evangelo con la ricerca della felicità o con la conquista della felicità? L'Evangelo non ha una risposta a questo. L'Evangelo è la risposta a questo. L'Evangelo non ha una risposta per insegnarti a essere più felice. L'Evangelo è qualcosa che ti rende felice. Io vorrei che noi leggessimo Luca, il capitolo 2, il versetto 8. Questa è la presentazione dell'Evangelo. In quella stessa regione c'erano dei pastori che dimoravano all'aperto nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. Ecco, un angelo del Signore si presentò loro e la gloria del Signore risplendette intorno a loro. Ed essi furono presi da grande paura, ma l'angelo disse loro, ascoltate bene, non temete, perché vi annunzio una grande gioia che tutto il popolo avrà. Vi annunzio una grande gioia che tutto il popolo avrà. Vi annunzio una grande gioia che tutto il popolo avrà. Lo ha detto a dei pastori che stavano fuori al freddo con le pecore nella puzza. Vi annunzio una grande gioia che tutto il popolo avrà. Poiché oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo il Signore. Una grande gioia che tutto il popolo avrà racchiude sia chi viaggia in elicottero e racchiude sia chi sta seduto al balcone sulla sedia a rotelle. Tutto il popolo avrà significa tutta questa lista di persone, tutte queste persone così diverse fra loro hanno bisogno di questa grande gioia che deriva dal fatto di avere una salvezza e un salvatore. Salvezza da cosa? Se la gioia è nella salvezza, allora dobbiamo capire da che cosa abbiamo bisogno di essere salvati. I contemporanei di Gesù pensavano che Gesù li avrebbe salvati dall'oppressione dei romani, o li avrebbe salvati dalle malattie, o li avrebbe salvati dalla fame, o li avrebbe salvati dai problemi familiari. E quanti miracoli ha fatto Gesù? alla vedova che gli ha risuscitato il figlio, alla moltiplicazione dei pani e dei pesci, ha fatto un sacco di miracoli e in qualche modo ha salvato e ha in qualche modo anche rafforzato quell'idea che lui fosse venuto per salvare da questo. Se noi pensiamo che Gesù è venuto a salvarci dai nostri problemi, dalle nostre difficoltà, dalle nostre paure, corriamo almeno tre pericoli. Uno, prendiamo in considerazione Gesù quando non abbiamo bisogno. Perché se lui è venuto a salvarci da un problema e noi non abbiamo problemi o pensiamo di non averne o non ne stiamo vivendo, non abbiamo bisogno di Gesù. È come se io, mia suocera lo fa, prende le medicine in maniera preventiva. Dice, io mo prendo l'antinfiammatorio, perché se per caso, e poi sta peggio sta. Quindi, se noi pensiamo che Gesù sia venuto a salvarci dai problemi e non abbiamo problemi, pensiamo di non avere bisogno di Gesù. Se noi pensiamo che Gesù è venuto a salvarci dai problemi, una volta che sono risolti i problemi, lo possiamo ringraziare, ma di nuovo non abbiamo più bisogno di Lui. E alla fine, se poi preghiamo e preghiamo e Gesù non ci risolve i problemi, diventa che è tutta colpa sua, la mia infelicità, le mie difficoltà e la mia insoddisfazione. Capite che inganno c'è nel pensare che Gesù sia venuto come un jolly a risolverci le nostre cose? La salvezza di cui parla qui è la salvezza che sta nel cuore di Dio. E la salvezza che sta nel cuore di Dio è l'amore che Lui ha avuto al punto di mandare Gesù sulla croce per salvare ognuno di noi dalla condanna del peccato. Questa è la salvezza di cui abbiamo bisogno. Ed è questa la salvezza di cui tutti abbiamo bisogno allo stesso modo e di cui nessuno può fare a meno. Perché Gesù è venuto non per condannare, ma per salvare coloro che credono in Lui. La salvezza dal peccato, la salvezza dalla separazione da Dio. E questa, capite bene che la gioia che deriva da questa salvezza non dipende più dalle circostanze, non dipende più dalle difficoltà del lavoro, dalle difficoltà della famiglia, o se sto bene o se sto male, o se sono giovane o se sono vecchio, o se inizio a sentire gli acciacchi. Non dipende più da questo, perché questa salvezza mi garantisce la vita eterna. Quindi io ho qualcosa di più grande da guardare, qualcosa di inconcepibile forse da guardare, la vita eterna. La salvezza dalla conseguenza del peccato. E qui iniziano i nostri problemi. Iniziano i nostri problemi perché sapete la storia di Adamo ed Eva, no? Adamo ed Eva stavano nel paradiso, dove meglio non si può stare. Andatela a leggere in Genesi al capitolo 3. Meglio di loro non poteva stare nessuno. E non c'era una condizione migliore alla quale loro potevano aspirare. Avevano tutto quello di cui avevano bisogno e oltre. È venuto un pensiero di dire io ho bisogno di più, io ho bisogno di quello che non ho. E che cos'è che non ho? Il permesso di andare a toccare quell'albero. E lì è nato quel desiderio nascosto nel nostro cuore, che coviamo sempre, in qualsiasi momento, che quello che non ho è quello di cui ho bisogno. Il diavolo è riuscito a seminare questo seme nel nostro cuore. Quando si parla di natura peccaminosa, non si sta parlando che un bambino è già malato del peccato quando è nato, ma è malato di quel desiderio che è nel suo cuore di desiderare quello che di cui non ha bisogno, quello che non ha. E tu prova un bambino a qualsiasi età a dire non andare ad aprire l'acqua. Prova anche a qualcuno più grande di dire non andare a vedere quel film che non è buono. La prima cosa che fai è lì, ad andare ad aprire l'acqua e a vedere il film. Perché? Perché quel desiderio di ricerca dentro di noi è quel dubbio che la mia felicità è in quello che non ho, l'ha seminato il diavolo nel nostro cuore. E questo ha fatto presa, e noi ci arrendiamo ogni volta a questo, e crediamo che quello che non abbiamo è quello di cui abbiamo bisogno. E poi, sapete come si conclude quella storia? È molto interessante. Dopo che hanno fatto quel che dovevano fare, Adamo ed Eva, allora si apersero gli occhi e ambedue si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie. Quando si dice si accorsero di essere nudi, non è che si sono accorti che non lo hanno visto prima, è che hanno iniziato a provare vergogna, hanno iniziato a provare disagio, hanno iniziato a non avere più quella libertà che Dio gli aveva dato, di essere uno di fronte all'altro, senza nessuna paura, senza nessun timore. Allora, si apersero gli occhi, ambedue si accorsero di essere nudi, così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinture per coprirsi. Poi udirono la voce dell'Eterno, Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Ed egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Ora, queste parole sono così terribili e hanno una condanna così profonda nella concezione di questo, di quest'idea, che io non credo di riuscire a spiegarla. Ma l'uomo non aveva perso la possibilità e la capacità di sentire la voce di Dio, ma quella voce di Dio che prima lo rendeva gioioso e lo chiamava un incontro di gioia, adesso provocava dentro di lui paura. E questo continua a essere nel nostro cuore, quest'idea di avere paura di Dio. Adamo ed Eva hanno iniziato a pensare: Dio mo si vorrà vendicare di me, perché io l'ho sfidato, io non ho fatto quello che ha detto lui, e allora sarà arrabbiato, sarà triste e vorrà togliersi qualche soddisfazione su di me. E qui nasce la nostra paura di Dio, la nostra idea che Dio sia qualcosa che dobbiamo in qualche modo tenere buono, accontentare, non far arrabbiare. È una paura che di nuovo il diavolo ha seminato dentro di noi. Ma come non è vero che la felicità è in quello che non abbiamo, così non è vero quest'idea che noi ci siamo fatti di Dio. Non è vero che abbiamo bisogno di avere paura di Dio. Vi ricordate la parabola dei talenti? Alla fine della storia, quando ritorna il signore, dice che allora va il servo, dice: io con i talenti ho fatto affari, ne ho guadagnati altri. Lui gli dice: entra, buono e fedele servitore, entra nella gioia del tuo Signore. Entra nella gioia del tuo... Non gli dice: hai fatto un buon lavoro, vieni e continua a comportarti bene, mi raccomando non sbagliare, che stai sempre sotto scoff. Perché questa è l'idea che abbiamo noi. Gli dice: vieni ed entra nella gioia del tuo Signore. Significa che in Dio c'è gioia. Ma è vero che in Dio c'è gioia? Io voglio leggervi e voglio commentarvi alcuni versi. Li ho messi a parte perché così non ho fatto in tempo, perché stamattina ho avuto un piccolo problema. In Proverbi, al capitolo 8, sta parlando di Gesù, quando Dio stava facendo il cielo e la terra, e dice così, dice: quando egli, cioè Dio, disponeva i cieli, io ero là, quando tracciava un circolo sulla superficie dell'abisso, quando condensava le nuvole in alto, quando rafforzava le fonti dell'abisso, quando assegnava al mare il suo limite perché le acque non oltrepassassero il loro confine, quando poneva le fondamenta della terra, io ero là. Ero presso di lui come un artefice. Ascoltate adesso che cosa è scritto. E poi andate a vedere nella vostra Bibbia se è scritto uguale. Ero sempre esuberante di gioia. Giorno dopo giorno mi rallegravo in ogni tempo in sua presenza. Mi rallegravo nella parte abitabile della sua terra. Trovavo la mia gioia tra i figli degli uomini. Qui sta parlando di Gesù. Qui sta descrivendo Gesù che mentre Dio fa la terra, lui è lì che gioisce, che esulta e che è pieno di gioia. Voglio leggervi un commento da questo libro qua, che è buono che ve l'andate a leggere, a comprare, a leggere. Allora, commentando questo brano che vi ho appena letto, Dylan De Marisco afferma, questo è un commentatore, dice: rallegrarsi è una traduzione moderata della parola ebraica sakak. I termini più accurati sarebbero ridere o giocare, fare le capriole. Cioè, ma voi ve lo vedete Gesù che fa le capriole, che ride, che gioca? Con chi che ride e gioca? Con il Padre e con lo Spirito Santo. Tutte e tre si mettono a ridere e a giocare perché sono felici. Questo è il Dio che ci presenta la Bibbia. Questo è il Dio che noi crediamo, che sta sempre lì tutta arrabbiata a dire se sbagli. E sta parlando di Gesù. E non dimentichiamo che Gesù in Isaia è descritto come un uomo familiare con la sofferenza. Quindi è possibile soffrire ed è possibile essere gioiosi nella sofferenza. Andatevelo a leggere questo libro perché è spettacolare. Noi crediamo che Dio sia triste e che sia geloso quando noi siamo felici, perché lui non lo è. Invece il desiderio di Dio è che noi siamo felici come lui. Per questo vi ho detto che Dio ha messo dentro di noi il desiderio di essere felici. Ha messo il desiderio di essere felici perché, siccome lui è felice, il suo regno è felicità, desiderando noi di essere felici, più ci approssiamo a lui. Più desideriamo andare nella sua presenza, più desideriamo essere con lui. Il desiderio di essere felici è legittimo ed è Dio che l'ha messo dentro di noi. Quando in Romani 14, 17 è descritto il regno di Dio, è scritto: è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Ed è la gioia che ho detto prima. Quindi la vera domanda, visto che noi tutti quanti desideriamo la felicità, perché Dio ha messo dentro di noi questo desiderio, la vera domanda è: dove cerchiamo la felicità? Dove cerchiamo la felicità? Perché noi continuiamo a pensare con la nostra testa come Adamo ed Eva, in quello che non ho. E noi pensiamo, in fondo lo pensiamo, che Dio ha detto non commettere adulterio o non concupire o non desiderare la donna ad altri, non perché è così sbagliato, ma perché non vuole che noi ci divertiamo e viceversa. Invece Dio ha detto non rubare, perché non rubare ti permette di essere felice, perché ti permette di mantenere la comunione con Lui, ti permette di mantenere la relazione con Lui. Dove cerchiamo la felicità? Dove io cerco la felicità? Molte volte noi viviamo la fede, viviamo, come vi ho detto all'inizio, siate sempre gioiosi, come una condanna, dice: Signore, siate sempre gioiosi. Eh sì, perché tu non hai i problemi che ho io. Tu non stai, non hai le difficoltà che ho io. È che ti viene di dire siate sempre gioiosi. Ma Gesù non ha messo scritto sulla Bibbia siate sempre gioiosi per darci un ulteriore peso da portare. Ma perché è possibile veramente essere sempre gioiosi? E non perché io non riesco, non ve lo posso dire. E non perché tu non riesci, non è vero. Perché è la parola di Dio che lo sta dicendo. Il salario del peccato è la morte. Mentre noi pensiamo che il risultato del peccato sia la nostra felicità. Quello che non ho, quello che desidero, quello che mi è vietato, quello è quello che mi rende felice. Capite quanto fatti male siamo? Capite quanto abbiamo bisogno di appropriarci della verità della Bibbia? Quanto abbiamo bisogno di scoprire quello che la Bibbia dice che è vero ed è vero per la nostra vita? Noi possiamo essere felici cercando la nostra felicità nella nostra relazione con Dio, esattamente come Adamo ed Eva. Dio li aveva messi lì per essere felici, perché la loro felicità era nella relazione con Dio, era nella comunione con Dio. Dici, tutto lì? Sì, tutto lì. Cioè, voi dovete pensare che noi saremo, per questo siamo qui e per questo crediamo, che saremo tutta l'eternità in comunione con Dio. Come faremo a non stancarci? Non lo so. Però non ci stancheremo. Tutto qui, sì, tutto qui. Quando Dio ha detto ad Eva, non mangiare di quell'albero, che tutto lì, sì, tutto lì. Quando Dio ti dice, fai quel che ti dico io, perché è meglio. Tutto lì, sì, tutto lì. Quando Dio mi dice, sii sempre gioioso, tutto lì, sì, tutto lì. Sì. Non abbiamo bisogno di essere più intelligenti di Dio e ad andare a cercare la nostra felicità in dei posti dove Lui ha detto che non c'è. Ma dobbiamo essere abbastanza umili da conservare quella felicità che Lui già ci ha dato e mantenerla e custodirla continuando a essere alla Sua presenza. Il Salmo 16, versetto 11. Tu mi insegni la via della vita. Ci sono gioie a sazietà in tua presenza. Alla tua destra vi sono delizie in eterno. Ci sono gioie a sazietà. Ci sono gioie a sazietà. Significa che c'è una gioia più grande che se l'Italia vince i mondiali. C'è una gioia più grande di qualsiasi cosa che tu riesca a immaginare. Io lo so che è difficile crederci. Io lo so che mi sembra di essere scemo a credere una cosa del genere. Io lo so. Però la scelta che ho è credere a quello che Dio dice o credere a quel che io penso. Credere a quello che io penso, posso già guardando indietro vedere che cosa provoca, che cosa succede, che cosa realizza. E tu puoi guardare nella vita tua. Guarda nella vita tua. Quando hai fatto esattamente quello che pensavi che dovevi fare e che magari non era completamente allineato alla volontà di Dio, che risultati hai avuto? Sei stato veramente così intelligente? Sei stato veramente così furbo? Io no. Io no. E adesso prova a pensare quando hai fatto veramente quello che Dio ti ha detto. Per quanto possa essere sembrato strano o stupido, qual è stato il risultato? Il Salmo dice, tu mi insegni la via della vita. Ci sono gioia gioie a sazietà in tua presenza. Alla tua destra vi sono delizie in eterno. Dio vuole che noi siamo felici e vuole insegnarci a essere felici. Vuole guidarci nella strada della felicità. Però dobbiamo fare come dice Lui. Questo non è contrattabile. Non è contrattabile. Dobbiamo fare quello che dice Lui e come lo dice Lui. Allora, io vorrei riassumere. Il desiderio di essere felici è nel cuore di tutti gli uomini, perché Dio lo ha messo. Dio ha messo quel desiderio nel cuore di ogni uomo. Quindi ogni uomo che desidera essere felice inizia a cercare la sua felicità. E la deformazione del peccato ci porta a cercare la felicità in quello che non abbiamo e in quello che non dobbiamo fare. Mentre la parola di Dio ci dice che il Signore ha preparato la strada per la nostra felicità semplicemente ubbidendo a quella che è la sua volontà. Questo è tutto. Dice, e sei stato tutto? Questo è. Tutto qua, sì, tutto qua. Ora, in mezzo a tutto questo c'è la nostra decisione. C'è il nostro decidere a che felicità vogliamo aspirare, a quella che Dio ci propone o a quella che crediamo sia quella che dobbiamo raggiungere. Qui è il nocciolo della questione. E questa è una decisione che tu e io possiamo prendere liberamente. E non abbiamo bisogno di essere speciali, abbiamo solo bisogno di essere ubbidienti. Non abbiamo bisogno di essere rapiti in cielo, abbiamo bisogno di dire: Signore, questo è quello che dice la tua parola e io lo voglio fare. Facile, semplice, ma vero. Allora, questa mattina abbiamo la Santa Cena. E la Santa Cena è qualcosa che noi facciamo per ricordare quello che Gesù ha fatto per noi. E non lo dimentichiamo che Gesù è andato sulla croce per riaprire la strada a quella felicità, perché su di noi c'era la condanna eterna del peccato. Non avevamo via di scampo, non ci potevamo svincolare da questo. È come quando tu dici a tuo figlio: ti porta al cinema. Non ti puoi più svincolare da quello. Quando dici a tua moglie: andiamo all'Ikea, non ti puoi più svincolare da questo. E noi eravamo legati e oppressi dal peccato. Gesù è venuto, è morto sulla croce per liberarci da questo e per permetterci di scoprire di nuovo la via della vita. Tu mi insegni la via della vita. Ci sono gioie e sazietà in tua presenza. Ora, quando noi facciamo la Santa Cena, questa mattina, io vorrei che noi potessimo prendere una decisione nel nostro cuore, semplice, facile, di cercare la felicità là dove Dio dice che è, e di smetterla di cercare la felicità dove noi crediamo che sia. E una decisione del genere ha bisogno di coraggio, ha bisogno di sostentamento. E per questo possiamo anche andare l'uno all'altro e chiedere la preghiera. E una decisione del genere ha bisogno anche che noi riconosciamo che non lo abbiamo fatto fino ad adesso, perché se lo dobbiamo decidere adesso, fino adesso non lo abbiamo fatto o non lo abbiamo fatto completamente, quindi abbiamo bisogno di chiedere perdono a Dio, perché non abbiamo fatto quel che Lui ha detto. E quindi nel fare la Santa Cena possiamo prendere queste decisioni e andare l'uno all'altro e chiedere la preghiera. Puoi andare da tuo marito, puoi andare da tua moglie, puoi andare da un membro della tua cellula, puoi andare dal capocellula, e dire: io ho bisogno che tu preghi per me, io ho bisogno di pregare assieme con te, perché voglio prendere questa decisione di cercare la felicità, di vivere la felicità là dove Dio dice che è, nella comunione con Lui. E sapete, quando il mondo ha incontrato la parola di Dio, Dio ha semplicemente detto: sia la luce, e si è acceso il sole. Quando la nostra vita incontra la parola di Dio e ascolta quello che dice la parola di Dio, nella nostra vita si accende la luce. Ed è questo il valore della decisione che andiamo a prendere: cambiare le nostre tenebre in luce, perché questo è quello che la parola di Dio vuol fare, e questo è anche il motivo per cui Dio ha dato questa parola a noi questa mattina. Vogliamo alzarci in piedi? Io vorrei pregare un momento e dopodiché possiamo partecipare liberamente alla Santa Cena, facendo quello che abbiamo appena detto. Signore Gesù, io ti voglio chiedere perdono, perché troppo spesso non ho fatto quel che dovevo fare. Però ti ringrazio che il tuo amore e la tua grazia mi offrono un'altra possibilità, e la offrono a me e la offrono a ognuno di noi. Signore, noi vogliamo guardare a questa possibilità e afferrarla, perché questo è quello che dà gloria al tuo nome ed è quello che ti rende felice, vedere che noi siamo felici della tua felicità. Signore, benedici questa parola nel nostro cuore e insegnaci a vivere la vita che tu hai preparato per noi secondo quella che è la tua parola. E la tua parola ci dice di essere sempre gioiosi, di non cessare mai di pregare e di rendere grazie per ogni cosa. Ti ringraziamo, Signore Gesù, e benediciamo il tuo nome, benediciamo il pane e il vino, benediciamo questo momento, e vogliamo arrenderci a quella che è la tua volontà per noi. Grazie Gesù. Amen.